Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Vabbè, quelli che vanno dal medico, quelli che vanno solo dal farmacista. E a proposito di quelli che, succede una cosa strana. Quelli che proteggiamo e curiamo con tanto amore, ne hanno sempre una, ci danno un sacco di grattacapi, si ribellano e talvolta se ne vanno. Quelli che invece strapazziamo, anzi cerchiamo letteralmente di eliminare dalla nostra vita, sono forti, determinati a non lasciarci. Non parlo naturalmente di persone, ma parlo di peli e di capelli. E voi che rapporto avete con questi cugini diversi? Stazione di Badolato! Alla stazione è venuto a prenderci mio cugino con l'Alfa 90. Cioè, mio cugino aveva il gomito fuori dal finestrino così, lo stereo altissimo. Questo pezzo va fortissimo in tutte le arrosticerie di Badolato. Mio cugino è rispettato, amico di tutti. Mio cugino. In linea con noi la dottoressa Sandra Lorenzi, direttore scientifico dell'IDE. L'IDE è l'Istituto Dermatologico Europeo di Milano. Buongiorno dottoressa, bentornata. Buongiorno Nicoletta, lei, bentrovata. Peli e capelli sono cugini, ma abbiamo detto diversi perché si comportano in modo differente. I capelli tendono a diventare fragili, a perdere tono, a cadere. Invece i peli sembrano avere sette vite, eppure sono fatti della stessa pasta più o meno. Ma io direi che sono la stessa cosa in realtà. In realtà va fatta una piccola distinzione che è già presente dalla nascita, nel senso che si distinguono già dalla nascita due tipi di peli, quelli del vello, quelli piccolini, sottili, non pigmentati, che solitamente ricoprono tutte le superfici glabre, e poi ci sono i peli terminali, che sono quelli più spessi, più pigmentati, che sono quelli provvisti di midollo. E questi di solito li troviamo in alcune aree, che sono il cuoio capelluto, la regione della barba, le ciglia, le sopracciglia, le ascelle e nel tronco. Chiaramente questa distribuzione è variabile soprattutto tra il sesso femminile e il sesso maschile. Questo non vuol dire che poi i peli del vello, che sono piccoli e sottili, si possono trasformare in peli terminali e viceversa, perché qui entra in gioco poi il ruolo degli ormoni androgeni. E lì, che dicono la loro? Che dicono la loro, col passare del tempo, dalle situazioni legate a assunzione di farmaci, legate all'età. Quindi due tipi di peli e anche loro, anche noi nei loro confronti usiamo due pesi e due misure. I capelli li mettiamo in mostra, ci fanno sentire forti, sani, belli. I poveri peli, quando va bene, li nascondiamo, ma se fanno tanto di farsi notare un pochino di più, passiamo subito alle maniere forti. Parliamo della ceretta brasiliana. Della Brazilian Wax. La ceretta brasiliana. Va di moda di questi tempi farsi la ceretta brasiliana. Un sacco di donne si sottopongono a questa tortura cinese e si fanno pelare come biglie. In che cosa consiste la ceretta brasiliana? Consiste nel levare tutta l'antica peleria del borgo e si lascia soltanto una traccia, come quelle che cercano i ris. E che già la ceretta fa male, perché ci sono quelle che dicono: ma no, ma la ceretta non fa male. No, certo, bruciarsi i peli col cherosene fa molto più male, certo. Cerette non solo, se volete parlarne con noi 800 24 00 24, potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter, per un pelo, è l'hashtag di oggi, oppure mandarmi un messaggio al 349 238 6666. Dottoressa Lorenzi, cerette a parte, eliminarli completamente non si può. No, non si può. Carina. Lei se la ride, perché sono quelle torture a cui noi donne ci sottoponiamo, anche se i tempi sono un po' cambiati, no? Brava, io infatti vorrei fare una piccola premessa, nel senso che questa storia dell'epilazione è in realtà vecchia, vecchissima. Pensi che le prime I primi report provengono dal tempo dell'Egitto, anche la mitica Cleopatra aveva dei suoi modi. Aveva problemi di peli, eppure... Anche lei, ebbene sì. No, in realtà le cose sono cambiate col tempo, ma perché sono cambiate le mode, sono cambiate le culture, guardi solo anche la differenza che c'è tra noi e tra gli arabi, dove in realtà invece il pelo ha un suo valore, ha un fatto erotico, insomma è un mezzo di comunicazione anche sessuale, invece noi nella nostra epoca tendiamo ad eliminarli e a volerli togliere completamente. Quindi la storia dell'epilazione è in realtà molto sfaccettata e molto diversa a seconda delle persone, a seconda delle ragioni, a seconda della storia. Devo dire che da noi oggi la medicina moderna attribuisce ai peli un ruolo così di accessorio da eliminare, ok? E mentre questa era una cosa che si faceva, diciamo, a cui tendevano prevalentemente le donne, anche gli uomini adesso non sono da meno e tendono sempre più frequentemente ad epilarsi o a depilarsi. Di loro, dei peli, del rapporto che abbiamo anche con loro, tante volte ci accaniamo, e dei capelli che vorremmo avere folti, lunghi, belli, perché sono espressione di salute, perché l'abbiamo detto tante volte, dottoressa Lorenzi, il capello racconta anche un po' la nostra salute. Assolutamente sì. Avevamo sempre, questo l'abbiamo citato anche in altre puntate, gli annessi cutanei, quindi le unghie e i capelli parlano di noi non solo da un punto di vista estetico, ma da un punto di vista proprio di salute. Quindi se volete parlarne con noi di questi cugini diversi, che poi io li ho chiamati cugini, ma in realtà sono fratelli a tutti gli effetti, cambiano solamente un po', no? Nella dimensione e nella posizione, se volete parlarne con noi, 800 24 0024, che rapporto avete con loro, come li trattate e che cosa siete disposti a fare per mantenerli o per eliminarli? Tra tutti i miei vorrei, non sento più quell'insensata voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnar capriole che a mezz'aria mai farò. Non senti che tremo e in estate tutti i nodi, dottoressa Lorenzi, vengono al pettine. Questa stagione è un banco di prova sia per i capelli che per i peli. I primi tendono a rovinarsi, anche se ci sembrano più belli con quei riflessi dorati, ma poi la paghiamo in autunno. Invece i secondi ci danno l'impressione in estate di crescere più rigogliosi. È vero o falso? Oddio, adesso che i peli d'estate diventano più rigogliosi, direi che fa, se che diciamo danno magari più fastidi perché ci sono delle condizioni climatiche come il caldo che sicuramente non aiutano. I capelli invece si rovinano particolarmente in estate e qui perché ci sono i problemi tipici dell'estate, il caldo, la salsedine e il sole. Quindi in realtà, se è vero che ai nostri capelli dobbiamo pensarci tutto l'anno, in estate bisogna avere degli accorgimenti sicuramente superiori, quali quello chiaramente di utilizzare dei balsami molto più spesso, in modo che la struttura della cheratina rimanga compatta e non assume quell'aspetto tipica scaglia di pesce, quindi utilizzare anche maschere emollienti come il burro di karité o anche l'olio d'argan, quindi prodotti del tutto naturale. Si utilizzano molto anche quegli oli che contengono all'interno dei filtri di protezione, generalmente degli SPF o 20 o 30, e questo serve chiaramente per non danneggiare il fusto e per non scolorirlo, perché sotto l'effetto del sole chiaramente il fusto tende a scolorirsi. Ma non dobbiamo dimenticare che in realtà il sole crea causa di quel tipico detto che si dice nel periodo post estivo, cioè la caduta del periodo delle castagne. In realtà i capelli non cadono nel periodo delle castagne perché cadono le castagne, ma in realtà cadono a causa di tutto il sole a cui è stato sottoposto il nostro cuoio capelluto dai mesi primaverili fino ai mesi estivi. Quindi, diciamo come regola generale in tutti, ma soprattutto in chi ha problemi di capelli, assolutamente fotoproteggere il cuoio capelluto dal sole. Quando diciamo questo, non usare gli oli, perché in questo caso non fotoproteggiamo il cuoio capelluto, ma usare dei veri e propri cappelli o bandane, soprattutto quando abbiamo dei periodi di esposizione particolarmente prolungati. E poi evitiamo ulteriori fonti di calore che non siano quelle naturali, quindi minimizziamo l'uso del phon, non utilizziamo la piastra, cerchiamo di utilizzare dei metodi, diciamo così, di asciugatura naturali. Ecco, al non utilizziamo la piastra mi è quasi svenuta in diretta Laura Vanossi, grande utilizzatrice di piastre, come d'altronde molte ragazze che col capello mosso anche in estate lo vogliono liscio. Lasciate andare in vacanza i vostri capelli, possiamo dire così, dottoressa Lorenzi? Le piastre, ecco, le piastre lasciamole a casa. 800 24 00 24, peli o capelli, chi vi dà più grattacapi? Ci avete scritto anche su Facebook, Andrea ad esempio, il suo grattacapo sono i capelli grigi, dottoressa Lorenzi. I capelli grigi? Sì. Ahimè, questo è un bel grattacapo un po' per tutti quelli che hanno quello che viene definito l'incanutimento precoce, ok? Quindi non solo la perdita dei capelli, ma anche il capello bianco, che di solito non insorge verso i 40-50 anni, ma può già presentarsi verso i 20-30 anni. Direi che però questo è legato molto a un fatto genetico. Generalmente nella storia familiare c'è chi ha iniziato a sviluppare dei capelli più chiari perché si perdono le eumelanine, quindi quei melanociti che pigmentano tipicamente il capello. Devo dire che al di là di alcuni prodotti naturali e complessi vitaminici che si possono utilizzare, qui non c'è niente che fa il miracolo se non la tintura per i capelli. Brava, e alla parola tintura è quella che riporta Alice, perché ci scrive proprio come ci dobbiamo comportare con le tinte per i capelli. Regole generali, ma soprattutto adesso che andiamo in vacanza o insomma è arrivato l'estate vera e propria, quindi la tinta si scolorisce anche un po' per effetto del sole, come bisogna comportarsi? Fa male? Fa bene? Ma allora, dire che la tintura per i capelli fa male, no, non mi sento di dirla, a meno che uno non abbia dei veri e propri fenomeni di allergia alla paraffinilendiamina, che è la sostanza utilizzata per il fissaggio del colore. La tintura per i capelli, nel campo cosmetologico c'è stata un'importante evoluzione sulla formulazione delle tinture. Attualmente esistono delle tinture particolarmente, diciamo così, definiamole naturali, che poi in realtà la vera tintura naturale è soltanto l'enne rosso, ok? Ma sappiamo benissimo che tinge per 10 giorni, 15 giorni, e poi tende a scolorare. Però sono delle tinture che contengono una percentuale molto più bassa di ammoniaca, che poi questo è il vero problema. Sono chiaramente tinture che danno un fissaggio inferiore, però in realtà hanno delle buone tonalità di colore e danneggiano molto meno il fusto. Se può essere, diciamo, l'unico scoglio quello di dover fare una tintura in più, insomma, ben venga, però in realtà i nostri capelli sono più protetti. Allora, abbiamo in linea con noi Giovanna da Pistoia e Luigi da Monza, che saluto. E intanto voglio leggere alcuni messaggi. In estate sudo copiosamente in testa, i capelli si sfibrano, diventano elettrici e ne perdo tantissimi. Che devo fare? Ci scrive un ascoltatore. Il sudore, è vero, molti pensano che sudando il capello si indebolisca, soffra e cada, ma il sudore non fa cadere i capelli. Il sudore non fa cadere i capelli. Ne fa tante, ma almeno questa no. In realtà l'aumento della caduta è il preludio di quello che le dicevo prima, cioè questo aumento della caduta che poi tende ad essere particolarmente importante verso settembre-ottobre. Quindi molte persone, soprattutto soprattutto le donne tendono ad avere questi fenomeni di telogen effluvium un pochino precoci, cioè già a metà estate iniziano, o all'inizio dell'estate iniziano ad avere un aumento della caduta. Chiaramente un telogen effluvium è un fenomeno assolutamente naturale che poi rientra e va trattato come tutti i fenomeni di telogen effluvium, quindi con integratori, con quando lei mi dice integratori, ad esempio, quali possono essere? Ma esistono... Perché per la pelle noi ci prepariamo, proteggiamo con le creme solari, prendiamo degli integratori che aiutano la pelle a difendersi dai baci del sole. Per i capelli, quali sono gli integratori che possono aiutarli in questo particolare momento dell'anno? Allora, diciamo che un integratore non è una terapia, quindi serve per integrare e per aiutare una struttura a prepararsi, ed è anche per questo che anche gli integratori per i capelli generalmente si consiglia sempre di farli nei cambi di stagione, sì. Okay? Quindi iniziare quando è aprile, maggio, in modo che il capello possa arrivare in un certo senso un pochino più tonico, un pochino più preparato al periodo estivo, quando esistono delle condizioni climatiche che tendono a peggiorare. Sì, mi sta dicendo in modo gentile, dovevate dirmelo prima. Ma sì, è un po' come ci si prepara al mare, ci si vede il viso chiazzato di macchie, si ricorre al dermatologo a maggio per togliere le macchie, e no, le macchie si tolgono in inverno, ed è lo stesso problema dell'epilazione e della depilazione. Oddio, ho un sacco di peli superflui, voglio rimuoverli col laser, e adesso si va dal dermatologo a gennaio o a febbraio. Perché no, adesso il dermatologo ci dice, signora o signore, se li tenga, se li sì, strappi. Sì. Se li strappi in altro modo, ecco, trovi il modo lei, ma io non posso fare nulla, ma quindi è tardi per utilizzare un integratore per dare ai nostri capelli una protezione in più, un'arma in più per difendersi? Io ritengo che tutti gli antiossidanti che vengono utilizzati per la pelle hanno una grossissima validità e un loro razionale scientifico anche nei confronti dei capelli, ok? Sì. E quindi parliamo di licopene, parliamo di vitamina C, parliamo di polimogium, di tutti quegli antiossidanti che si utilizzano per la cute. Poi è chiaro che nei confronti dei capelli dobbiamo sempre considerare la struttura del capello, e quindi vanno bene sostanze integratori che abbiano della biotina, che abbiano del ferro, che abbiano del silicio, che contengano al loro interno della taurina e dell'arginina, quindi tutti aminoacidi che entrano nella costituzione del fusto e che aiutano a mantenere più tonico il fusto. Giovanna, eccoci qua, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei, mi dica. Che bella voce. Grazie. Allora, io ho quasi 62 anni e penso con la menopausa i miei peli sono abbastanza scomparsi, quindi questo un è veramente questo è un vantaggio della menopausa. Un vantaggio. Lo svantaggio è che mi stanno scomparendo le sopracciglia. Che sempre peli sono. Questo non ci piace, Giovanna. Per niente. Dottoressa Lorenzi, e a noi ci sono dei peli che ci piacciono e altri peli che invece non ci piacciono, e solitamente cadono quelli che no, vorremmo tenere, e invece rimangono quelli che vorremmo. Cioè, sempre così, la stessa storia. Cosa si fa per le sopracciglia? Purtroppo la regolazione ormonale non è a caso, e quindi soprattutto nelle donne dopo la menopausa, con il calo ormonale si inizia ad avere un fenomeno di perdita di peli generalizzato, e a volte generalizzato talmente tanto che può riguardare anche il cuoio capelluto, e quindi può riguardare anche i peli terminali, quindi cuoio capelluto, ciglia e sopracciglia. Mm. Okay? E questo è sempre legato comunque all'attività degli ormoni androgeni. Devo dire che la perdita delle sopracciglia in realtà può essere un fenomeno che può essere anche legato ad altre patologie. Adesso non vorrei essere troppo riduttiva nel mio sì. modo di esprimermi, perché esistono delle patologie specifiche che danno proprio come problematiche una caduta di queste delle sopracciglia, e quindi qui non entriamo più soltanto nel gioco della regolazione degli ormoni androgeni, abbiamo delle problematiche diverse. Io non so, forse mi farei prima vedere da un dermatologo per essere sicuri che il problema sia un problema diciamo così non legato a qualche altra patologia del cuoio capelluto, esistono malattie come l'alopecia areata o l'ichel plano pilare che molto spesso nelle donne si manifestano clinicamente con la perdita delle sopracciglia, ok? Quindi una volta che abbiamo escluso questo, a questo punto trattiamo i nostri peli come trattiamo tutti i peli del corpo, e quindi trattiamo le sopracciglia come i capelli e utilizziamo i prodotti che utilizziamo per i capelli anche per le sopracciglia. E loro si ripigliano? Sì. Meno male. Luigi, buongiorno da Monza. Buongiorno a lei, a tutti. No, no, Luigi, la richiamiamo perché si sente malissimo. 800 24 00 24, se volete intervenire. Rosy da Mimodrone ci scrive, dottoressa Lorenzi, ma l'epilazione alle sopracciglia è pericolosa essendo vicina agli occhi. Ecco, questo per dimostrare che c'è chi le vuole e c'è chi non le vuole. Il mondo è bello perché è vario. Dottoressa Lorenzi. Bravissima, infatti noi diamo delle regole generali a volte in questo settore, ma devo dire che esiste una soggettività imponente. No, epilare le sopracciglia è come epilare qualsiasi altra superficie corporea, anche nella regione inguinale, insomma non è che abbiamo poi, insomma possiamo avere anche lì delle problematiche perché ci troviamo in una zona particolarmente delicata. È chiaro che quando parliamo di epilazione e quando parliamo di epilazione permanente, perché qui bisogna fare una distinzione tra quella transitoria e quella permanente, quando parliamo di epilazione permanente, quindi parliamo della laser, epilazione, luce pulsata, insomma a seconda delle metodiche che si vuole utilizzare, qui siamo di fronte a un atto medico, quindi una volta che sia eseguita da personale medico e personale competente non abbiamo nessun tipo di rischio, nessun tipo di problema. Quindi l'importante è affidarsi, come sempre, sembra una banalità, ma alla persona giusta. Certo. C'è chi ne ha di più, c'è chi ne ha di meno, chi li ha folti, chi li ha radi, possiamo parlare di peli e di capelli, chi li cura e chi li trascura. Dottor Lorenzi, abbiamo sottolineato che è importante proteggere i capelli, lei ha anche sbugiardato una credenza popolare che dice che i peli in estate crescono di più, ma è importante in questo particolare periodo dell'anno dedicare un pochino di più di cure sia ai nostri peli, quando li strappiamo ad esempio, sia ai nostri capelli. Abbiamo realizzato un breve sondaggio, vediamo che cosa fanno i nostri milanesi quando si devono prima di portare le chiome al mare. Io senza capelli sono una pagina senza quadretti, un profumo senza bottiglia, una porta chiusa senza la maniglia. Ah, io uso un sacco di prodotti, lo shampoo, il balsamo, la crema, li curo molto. Li lavo e basta. Vitamine, soprattutto qualcosa a livello interno, pochi pasticci sopra, non tutte quelle lozioni, quelle cose a cui non credo molto. Ho uno shampoo normale, al massimo ogni tanto il balsamo. Bisogna usare dei prodotti appropriati, delicati, tagliarli, rinforzarli, magari non maltrattarli con tinte, mesh. Insomma, c'è chi li taglia, c'è chi li lava di più, c'è chi usa dei prodotti specifici, chi invece consiglia di non usare tutti quei pasticci. Noi torniamo subito dopo i mercati e il meteo insieme per parlare di peli e di capelli, insieme alla dottoressa Sandra Lorenzi, ma insieme a tanti altri ospiti. Essere e benessere. Come porti i capelli, bella bionda, tu porti alla bella marinara. Dipende molto dalle serate. Come l'onda. Dunque io di solito i capelli me li tiro. Ma come porti i capelli, più che bionda, tu poi con l'astico mi faccio una coda di cavallo che scivolando se ne va via giù tutta sulla moquette. Pure mi faccio la riga in mezzo e due scignoni. Una domanda bruciapelo. Come portate i vostri capelli? Come pensate di portarli in vacanza? E che cosa fate per portarli tutti a casa? 800 24 00 24, ne stiamo parlando con la dottoressa Sandra Lorenzi, ma si è aggiunto anche il dottor Marco Temporin. Buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta, saluto a tutti. Medico, nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva presso il CMSR Veneto Medica di Altavilla Vicentina, che ci racconta che cosa possiamo mettere in tavola per aiutare i nostri capelli, i peli non li vogliamo, soprattutto in estate, per rendere i nostri capelli belli, forti, lucenti, sani. Dottor Temporin. Certamente. Allora, ho due prodotti che possono essere utili da utilizzare in tavola per migliorare la lucentezza, la forza e la resistenza dei nostri capelli. Siamo pronti. Il primo prodotto che consiglierei è il lievito di birra, il quale è un alimento ricco di vitamine del gruppo B, sali minerali, aminoacidi, e si può utilizzare in modo molto semplice utilizzandolo in scaglie da mettere direttamente nelle nostre insalate estive. Quanto se ne usa, dottor Temporini, e dove si compra? Allora, diciamo che questo prodotto lo troviamo nei supermercati biologici e possiamo utilizzarne uno o due cucchiai nella nostra insalata quotidiana. È anche buono? È molto buono, a molti piace perché ha un gusto leggermente simile al formaggio grana e quindi è molto gradevole, ma soprattutto ha una alta concentrazione di vitamina del gruppo B, quindi è un ottimo rinforzante per capelli, unghie e migliora anche lo stato della pelle. Mi dica la verità, lo usa anche lei? Ogni tanto nell'insalata lo metto, sì, è molto gradevole. Perché è un po' vanesio anche lei? Poco poco. Allora, dopo il lievito di birra, che cosa ci suggerisce? Altro alimento che io trovo molto interessante sono i germogli di alfalfa. L'alfalfa, o medicago sativa, viene detta comunemente erba medica, i cui chicchi sono una fonte naturale di vitamine, sali minerali, e la cosa bella è che i germogli di questi chicchi sono ricchissimi di nutrienti utili per i capelli. Tra l'altro è un alimento molto rinfrescante, quindi anche questo aggiunto nelle nostre insalate può essere veramente gradevole. Quindi mi scusi, dottor Temporin, se io almeno due volte alla settimana aggiungo all'insalata, metto insieme lievito di birra e alfa-alfa, sono a posto. Che dice? Assolutamente, abbiamo un'ottima concentrazione di nutrienti e i nostri capelli ne risentiranno in modo benefico. Quindi avere dei capelli belli e forti e sani è facile come mangiare un'insalata, dottoressa Lorenzi? È facile come mangiare un'insalata? Potrebbe essere, no? Potrebbe. La salute dei capelli. Secondo me ci vuole un pochino di impegno più, però. La salute dei capelli inizia da un'insalata. Dottor Temporin, anche un'altra chicca per noi o vogliamo salutarci? Beh, diciamo che per proteggere i nostri capelli dalla salsedine, dal sole e soprattutto dal fatto che d'estate possono essere rovinati, molto spesso, una volta alla settimana, prima di lavarli, un impacco con l'olio di ricino, ne basta mettere poco in quanto è molto nutriente e quindi non esagerato, e con mezz'ora di impacco d'olio di ricino ridona lucentezza e protegge i nostri capelli da sole e salsedine. Quindi non usiamo l'olio di ricino per i nostri peli? Se no si ripigliano subito. Dottoressa Lorenzi, tutto quello che va bene per i capelli, però non dobbiamo usarlo per i peli. Beh, in realtà in farmacia, tra i prodotti che vengono definiti come in vendita rinforzanti per le sopracciglia, c'è proprio l'olio di ricino, ad esempio. Quindi sulle sopracciglia può essere un rinforzante? Sì, è un rinforzante naturale, aumenta la brillantezza, aumenta la lucidità del pelo e quindi, diciamo così, ha anche un aspetto visivo diverso, insomma, della struttura stessa. Intanto salutiamo il dottor Temporin e quindi possiamo consigliare anche lui, ma lui già lo sa, di utilizzare un po' di olio di ricino sulle sopracciglia. Dottor Temporin, lei lo fa? No, perché voi uomini alle sopracciglia non siete tanto attenti. Grazie dottor Temporin, buona giornata. Dottoressa Lorenzi, grazie. Abbiamo parlato di sopracciglia, non vogliamo parlare di ciglia. C'è qualche cosa per rinforzarle? Allora, chiaramente lì siamo vicini a una struttura, qual è l'occhio, e bisogna stare particolarmente attenti. Esistono sempre questi, l'olio di ricino, sempre con quelle spatoline che si applicano, con cui noi mettiamo il rimmel, ecco, l'olio di ricino può essere distribuito anche nelle sopracciglia, ma bisogna fare anche particolare attenzione, perché se poi va davanti, dentro l'occhio, può avere anche un effetto irritante. Però le dico questo, pensi che esista in commercio un farmaco che ha un effetto particolare come effetto collaterale, che è quello proprio di sviluppare un'ipertricosi delle ciglia. Fantastico! Questo farmaco è in realtà il farmaco che noi utilizziamo per il glaucoma, ok? Quindi il latanoprost. L'effetto collaterale si esplica perché mettendo delle gocce chiaramente all'interno dell'occhio, questo può finire anche sulle ciglia e questa ipertricosi è particolarmente descritta. Noi ad esempio un prodotto che utilizziamo nei pazienti che hanno l'alopecia areata, quella proprio di distribuire il prodotto non all'interno chiaramente, ma in maniera delicata, sottile, sulla rima palpebrale per stimolare la crescita delle ciglia stesse. Io devo dire che a volte mi sono un po' sbizzarrita anche a consigliarla in alcune persone che hanno delle ciglia particolarmente piccole, sottili e povere. E funziona. Proprio un po' come e funziona, si mette un po' come una sorta di balsamo. Bravissimo, sì. Facendo vede, però molta attenzione. Facendo attenzione. Stiamo parlando di un farmaco, quindi ha degli effetti collaterali, insomma. Ma questo è per dimostrare che ci sono peli e peli. Alcuni peli ci fanno comodo, li vogliamo, i peli delle sopracciglia, ad esempio quelli, i peli delle ciglia, perché tali sono. Altri peli invece vogliamo eliminarli perché ci creano imbarazzo, non solo a noi donne, ma anche agli uomini. Tanto che adesso sempre più uomini si depilano sottoponendosi a delle torture, ma molti ascoltatori mi scrivono chiedendomi: è estate, forse è tardi, ma la pelliccia sulla schiena mi crea molto imbarazzo, sono villoso, la mia ragazza mi chiede di depilarmi. Insomma, spesso sono anche le donne a invitare i loro compagni a sbarazzarsi del pelo, tant'è che io sono andata al mare e ho visto quasi tutti uomini glabri, insomma, gli uomini villosi sono diventati un prodotto di nicchia. Cercarli in spiaggia è come cercare un ago nel pagliaio. Allora, noi lo andremo a cercare insieme a Marta Cagnola, dove? Non in spiaggia, ma nel grande schermo. Intanto pensate agli uomini villosi del grande schermo, 800 24 00 24, e noi andiamo ad Elvira che ci chiama da Treviso, e poi Paolo da Milano e Antonello ancora da Milano. Elvira, buongiorno. Ah, buongiorno, io volevo chiedere perché ho i capelli tutti neri e ho 62 anni e tutti mi chiedono se mi faccio la tinta. Io ho tenuto le mesh per quasi 20 anni, quando ho tolto le mesh mi sono ritrovato con i capelli neri. E questo non le piace, Elvira? Ma sì, mi piace, però ero curiosa di sapere, visto che c'è questo programma, da che cosa, come da, mai, perché così fortunata? Tutta la famiglia ad essere così fortunata. Dottoressa Lorenzi. Questa è una fortuna che vorrebbero avere tutti in realtà e che molti non hanno, come il ragazzo di prima che ha 33 anni invece ha già i capelli grigi. Stiamo sempre parlando di genetica, stiamo sempre parlando di genetica. Il colore dei capelli è legato alla genetica, è legato a queste eumelanine, e ci sono delle persone che tendono a fare i capelli grigi molto tardivamente, è una cosa molto rara devo dire, però soprattutto nel sesso femminile, quindi è una cosa più frequente nel sesso femminile che nel sesso maschile. Ci sono delle mie pazienti, nonne, che a 80 anni hanno veramente solo 2-3 capelli bianchi, ma qui non c'è un motivo particolare. Li sfoggi felice, Elvira. Ecco. Paolo da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, volevo porre alla dottoressa la domanda del secolo sui capelli. Ho 37 anni, nonno, papà, tutti con pochissimi capelli, praticamente pochissimi, davvero. E, ecco, volevo chiedere, a prescindere, consentitemi la battuta, dall'utilizzo di prodotti quali lievito di birra o degli alfalfa, come sentivamo prima, quanto la perdita dei nostri capelli è dovuta a fattori di stress, lavoro o altre situazioni, e quanto a fattori genetici, per cui posso essere la persona più serena di questo mondo, ma tanto sarò comunque condannato, anche per sfatare, secondo me, tante pubblicità, fialette, minoxidil o altri prodotti che dovrebbero fare dei miracoli. Tutto qui. Va bene? Grazie Paolo, resti in ascolto. Dottoressa Lorenzi, lei prenda il fiato perché noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade, sulle autostrade, e poi rispondiamo a Paolo. E intanto, se volete intervenire, 800 24 00 24, peli e capelli per un pelo. Essere e benessere. Dottoressa Lorenzi, è pronta a rispondere a Paolo? Lo stress quanto pesa rispetto all'ereditarietà? Domanda. E le spiego perché, perché si parla di due fattori che corrono strettamente paralleli e interagiscono tra di loro e si influenzano, ma in realtà la calvizie non è legata allo stress. E quindi ci sono, come diceva il Signore, persone felici e serene che comunque a 20 anni sono calve. Questo perché lo stress è sicuramente una causa di aumento della caduta dei capelli, ma questo vale per tutte le persone, può valere anche per me, posso attraversare in alcuni periodi dell'anno dei momenti in cui ho una maggiore caduta, ma tanti capelli mi cadono, altrettanti ne ricrescono. La calvizie invece è un fenomeno che non è legato ad un aumento della caduta dei capelli, è legato ad una loro assottigliamento, a quello che si chiama miniaturizzazione, cioè se io ho 20 capelli e li perdo, quelli che ricrescono non sono uguali a quelli che sono caduti, crescono ogni volta sempre più sottili. È normale quindi che se io attraverso un periodo in cui perdo 100 capelli al giorno, ma perché è un momento di stress, la mia calvizie in quel momento peggiora perché saranno 100 a diventare più sottili. Ed è per questo che nei pazienti con la calvizie si tende molto a curare comunque l'aspetto dell'aumento della caduta dei capelli, perché è un fenomeno che influenza e slatentizza la gravità della malattia. Quindi... Ah, no, andrà tutto bene, okay. Tutto bene. Eccolo, è lui. Mm-hmm. Ciao, come va? E questa è la prima volta che si fa la ceretta? Sì, sì, la prima. Via la camicia. Ok. Oh, portate tutta la cera! Eccoci qua. Oh, è calda comunque. Hai una bella pelliccia. C'è anche a maniche lunghe. È pronto? Andiamo. Ichi, ni, san. Oh! Oddio! Tesorato, tesorato, fa solo il suo lavoro. Vuole che interrompiamo? No, no, no, no, no. Mi dispiace. Non fa niente. Oh, oh, ancora una. Wow, certo non me l'aspettavo così. Non me l'aspettavo affatto. Puoi farcela. Wow. La prima è l'unica che fa male. Sì, attacca i peli più fitti. Filippa Oreggi, che regia la parte tecnica, soffriva perché si immedesimava nello strappo. Laura Vanossi invece era assolutamente serena. Insomma, nei confronti dello strappo abbiamo un atteggiamento diverso, uomini e donne. Ma si strappano anche i maschi, tanto che abbiamo chiesto a Marta Cagnola, che è in linea con noi. Ciao Marta. Eccoci qua, sappiamo tutto sull'argomento. Di aiutarci a cercare qualche pelosone, perché ormai i pelosi sono in via d'estinzione, Marta. Allora, ho fatto un sacco di ricerche, sono finita, immaginatevi, su qualsiasi tipo di sito, molti non si possono raccontare. Intanto gli specializzati nell'argomento sono soprattutto i nostalgici degli attori villosi. Ci sono vere e proprie classifiche, mi sono concentrata un po' sugli attori americani perché altrimenti il campo di ricerca sarebbe stato troppo vasto. Ebbene, il top assoluto in tutte le classifiche degli uomini villosi è Sean Connery. Smagliante, che dice la sua, dice la sua, sì, ancora, però all'epoca, insomma, spesso a petto nudo nei Bond, ma anche in servizi abbastanza glamour dell'epoca. Nature era anche il Bond di Pierce Brosnan. Siamo quindi molto nell'epoca anteceretta, che è poi quella di Daniel Craig, che secondo me comunque si fa perdonare, ma insomma, anche va bene lo stesso. Rimanendo negli anni d'oro di Hollywood, la foto più famosa, aprile 1972, pagina centrale di Cosmopolitan. Cosmopolitan decide di sfidare i pagini centrali di alcune riviste che ritraevano signorine non vestitissime. Francesco Scavullo fotografa Burt Reynolds, villosissimo, che si copre il minimo sdraiato su un tappeto di pelliccia. Sicuramente avete in mente quella foto, che è poi una delle più imitate dagli attori di oggi che però spesso abbondano in cerette. Abbiamo cercato chi possono essere gli epigoni di, non so, Alec Baldwin, David Hasselhoff, Tom Selleck. Ebbene, oggi a darci soddisfazione evitando le cerette sono Jude Law, il mio preferito, Hugh Jackman, Mark Ruffalo e John Hamm, quello di Mad Men, il pubblicitario anni 60. Loro resistono, ma c'è una curiosità che ho scovato per te, Nicoletta, ed è Harrison Ford, che si è sottoposto a una ceretta nel 2008 per uno spot ambientalista di conservation.org, uno spot efficace sul dolore che prova la terra quando viene disboscata, perché immagino che faccia agli ometti quello spot la stessa impressione che ha fatto al nostro Filippo la scena di Steve Carell che si fa la ceretta, quindi insomma per loro è molto efficace quello spot. Io ringrazio Marta Cagnola, sempre divertente, curiosa, che nelle sue incursioni qua a Essere Benessere. Grazie Marta, ma prima di lasciarmi, ti piacciono glabri o villosi? Guarda, io sono democratica, c'è solo una cosa che non sopporto. Hai presente la ricrescitina dopo la ceretta? Ecco, basta che non abbiano quella, quella proprio non la posso tollerare. Allora, via la ricrescitina. Forse c'è qualche cosa, dottoressa Lorenzi, per fermare la ricrescita o per rallentarla? No, nel senso che o uno fa un'epilazione permanente, quella cosiddetta definitiva, e quindi si rivolge a queste metodiche epilatorie, per il resto tutte le altre metodiche possono leggermente rallentare, come può essere lo strappo, quindi la ceretta, oppure quei silk peel, ma in realtà il pelo poi dopo quei 15 giorni ha ricresce. Quindi se volete piacere a Marta Cagnola dovete coltivarlo con attenzione e quindi estirparlo prima che nasca. Grazie a Marta Cagnola per essere stata con noi. Ciao Marta. Ciao. Antonia, buongiorno dalla provincia di Cagliari e poi Antonello da Milano. Ma vi piacciono o non vi piacciono gli uomini pelosi? Antonia, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io vorrei porre questa domanda per quanto riguarda la caduta dei capelli. Io da te ho 4 anni che noto appunto questa caduta. Sì. Io premetto che sono ipotiroidea. Sì. Influisce la tiroide sulla perdita dei capelli? Capelli? Brava Antonia. Dottoressa Lorenzi, bella domanda. Sì, la tiroide è chiaramente una ghiandola legata a un metabolismo ormonale molto importante e le alterazioni metaboliche della tiroide sono una delle prime cause, come la carenza di ferro, di aumento della caduta dei capelli. Rientrano nello screening, la valutazione della funzionalità tiroidea rientra nello screening di base di un paziente in cui ci si accorge un'aumentata caduta. È chiaro che corretto l'alterazione di base, il telogen effluvium da alterazione del TSH o dell'FT4 si assesta e quindi la caduta rientra. Quindi sono proprio degli esami, delle verifiche che vengono fatte in presenza di disturbi di caduta, ferro e la funzionalità della tiroide. Sì. Rimettendo in equilibrio la tiroide i capelli ritornano belli. Sì. Antonello, buongiorno da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Senta, Antonello. Come va con la ricrescita, Antonello? No, zero ricrescita. Zero ricrescita. Perché io ho problemi al contrario. Lei se li tiene. Va bene. No, ho problemi al contrario, perché siccome ho pochissimi capelli, diciamo, sopra, cioè la classica chierica, dietro vado a radermi ogni 3-4 giorni. E cosa mi capita? Mi capita che da qualche tempo a questa parte sono venuti fuori una specie di foruncoli che non sono pieni di niente, sono solamente la pelle si sormonta, diventa una specie di brufolo, ma fondamentalmente non c'è un pelo incarnato, non c'è dentro dei tardoni del polso, quelle cose sono andate da... dal dermatologo, mi ha detto che non ho assolutamente nulla. Ho provato a cambiare creme e quant'altro. Siccome io ho 45 Ho capito, Antonello. Mi scusi, devo bloccarla perché tra 30 secondi chiudiamo. Dottoressa Lorenzi, questo è un effetto collaterale della rasatura? A me fa pensare a una follicolite. Follicolite, questo è la parola giusta per spiegare il problema di Antonello. E quindi bisogna forse prevenire questo problema con scrub, con un'idratazione alla pelle. Ma dottoressa Lorenzi, non abbiamo più tempo per parlarne. Io la saluto e la ringrazio. Ringrazio voi che siete intervenute. Ad Antonello chiedo di iscrivermi a Essere Benessere @radio24.it. Grazie a Filippo Aureggi e a Laura Vanossi. A domani. Essere Benessere.